La conferenza di Sharm el-Sheikh sul futuro dell'Iraq, indetta dal governo provvisorio di Allawi e a cui hanno partecipato i potenti del mondo ed i vicini dell'Iraq occupato, ha approvato all'unanimità una dichiarazione che si basa sulla risoluzione ONU 1546 e sostiene il processo politico che dovrebbe portare ad elezioni generali per il 30 gennaio del 2005. Secondo Ramon Mantovani, parlamentare del PRC, la conferenza di Sharm el-Sheikh era però falsata in partenza. Questa conferenza parte col piede sbagliato, non ci sono i protagonisti dell'opposizione, della resistenza irachena e non sembra essere certo il luogo risolutivo del problema. Quindi forse anche la sola presenza di Colin Powell dimostra anche perfino lo scarso interesse che l'amministrazione statunitense dà a questa conferenza. La Francia aveva posto delle precise condizioni perché si tenesse una reale conferenza internazionale di pace. Queste condizioni non sono state accettate ed è chiaro che questa conferenza è inservibile da questo punto di vista. Non parla del ritiro delle truppe perché questa conferenza si poggia esattamente sull'occupazione militare statunitense della Gran Bretagna e dell'Italia e degli altri paesi che hanno truppe in minore numero ma che ce le hanno. Queste elezioni, anche queste, sono un miraggio, diciamo una foglia di fico con la quale si sta giustificando una guerra che è ancora in corso. Per far finire una guerra ci vuole un trattato di pace e ci vuole un cambiamento radicale della situazione, non la convocazione di elezioni da parte di un governo che non ha nessuna legittimità se non quella che gli danno le forze occupanti che stanno conducendo la guerra. Ci vorrebbe uno stop all'uso delle armi, ci vorrebbe una conferenza internazionale con tutti i protagonisti, compresi quelli che si oppongono alla presenza militare delle forze occupanti, ci vorrebbe un maggiore, più chiaro e più netto coinvolgimento di tutti i paesi dell'area. Ci vorrebbe una connessione con un avvio di un processo di pace sulla questione palestinese che è storicamente legata alla questione dell'Iraq e questo sarebbe una soluzione del problema. Quello che si sta facendo invece è la pura e semplice continuazione della guerra. E proprio il processo elettorale, oltre a risultare illegittimo per il probabile boicottaggio della comunità sunnita, rischia di innescare nuove tensioni nella zona. Ascoltiamo padre Jean-Marie Benjamin della Fondazione Beato Angelico. Il processo elettorale è una delle cose più complesse, più complicato. Già dall'inizio della questione irachena stiamo navigando a mezzo l'illegalità totale, questo lo sappiamo, cioè anche Kofi Annan ha detto che questa guerra è illegale. Dunque, come organizzare delle elezioni democratiche in un paese che è occupato illegalmente e anche detto dal segretario generale dell'ONU e dalla maggioranza dei paesi membri dell'ONU, questa illegalità si verifica a tutti i livelli della società. Siamo in un governo provvisorio messo dagli americani, dunque dalle forze di occupazione, che non è accettato da una parte molto importante della società irachena. Poi siamo in un paese senza costituzione, la costituzione è stata cancellata. Poi un paese nel quale le forze di occupazione, 20 mesi più dopo che è stata dichiarata la fine della guerra da Bush, 20 mesi dopo continuano a bombardare il proprio popolo, cioè Alawi fa bombardare il proprio popolo, e la reazione è quella che le consigli degli Uleman, che è dell'autorità religiosa più importante, ha già detto, ha già chiesto di boicottare le elezioni. La questione sciiti, che non è lontana di essere finita, hanno aspettato perché le elezioni sono buone per i sciiti e anche i curdi. Se la parte sunniti boicottano, non vanno alle elezioni e che le elezioni siano riconosciute valide, sarà una maggioranza inevitabile sciiti. Allora il problema tra i sciiti e i curdi saranno molto più potente, più grave, più complesso che il problema che c'era tra Saddam Hussein e i curdi, ci sarà un terribile conflitto tra sciiti e i curdi, tutte le frazioni curde, che è già una cosa in sé molto complessa. Dunque il processo, organizzare queste elezioni, che non potranno essere fatte sull'insieme del territorio, sarà comunque contestato da una parte importante della popolazione. Ed un altro fattore troppo spesso sottovalutato quando si parla di Iraq come di altre zone del mondo arabo è l'influenza dei rapporti tribali nella vita politica e sociale del paese. Sentiamo a proposito ancora padre Benjamin. Io ho incontrato alcuni mesi fa 31 sheikh delle tribù irachene in Siria. Il capo delegazione di queste tribù, che rappresentano 7-8 milioni di iracheni, cioè un terzo della popolazione, queste tribù hanno dichiarato, mi l'hanno detto, l'ho registrato, fino a quando avremo nel paese un solo militare di forza di occupazione, noi non parteciperemo a nessun, daremo ordine di non partecipare a nessuna votazione e di non potremo mai riconoscere un governo provvisorio messo dalle forze di occupazione. Dunque ci sono i fattori non solo sunniti, sciiti, curdi, ma anche quelli delle tribù, e all'interno delle tribù tutto un'influenza estera, l'influenza dell'Iran con i sciiti, eccetera. Dunque non vedo come possono fare delle elezioni in un paese in queste condizioni. E delle attuali condizioni dell'Iraq è in qualche modo responsabile anche il governo italiano. Ascoltiamo ancora il parere di Ramon Mantovani. Andiamo dicendo fin dall'inizio che sia in Afghanistan, sia in questo caso, ma prima ancora con la guerra del Kosovo, l'Italia ha fatto delle guerre ed è una palese violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Questa purtroppo è una continuità che dura da molti anni e che bisognerebbe cancellare, perché almeno dovrebbero avere il coraggio di proclamarlo, di dirlo apertamente che l'Italia è in guerra e chiedere una modificazione dell'articolo 11 della Costituzione. Invece continuano a chiamare le guerre interventi umanitari, guerre preventive, che in Italia invece si chiamano interventi consolidamento della pace e quant'altro. Insomma, che ci sia una di fatto cancellazione dell'articolo 11 è evidente a tutti, tranne quelli che fanno finta di non vederlo. Questi stessi soggetti non si accorgono o non vogliono accorgersi dei rischi insiti nel processo di disgregazione dell'entità statuale irachena, che sembrano essere alla base del disegno politico targato G.W. Bush. L'opinione di Jean-Marie Benjamin. Nel mio libro uscito in Francia, Ce que Bush ne dit pas, quel che Bush non dici, due anni, cioè sei mesi prima dell'attacco, due anni e mezzi fa, avevo detto alla pagina 161 quella quale gli americani bombarderanno e invaderanno l'Iraq anche senza l'ONU, è andato così. Poi vogliono arrivare a fare una specie di confederazione su modello libanese o svizzero, sarebbe un modello un po' troppo perfetto per la situazione, ma comunque come vanno le cose, si va verso una specie di confederazione in tre federazioni, nord, centro e sud, e questo sarà un nuovo fattore di destabilizzazione sull'insieme del Medio Oriente, un processo di democratizzazione che sarà mai più possibile dopo il massacro di Fallujah e quelle che continuano, non sarà mai possibile un processo di democratizzazione ormai prima di 10 anni in questi paesi e nemmeno a pensare in un altro paese del Medio Oriente. Hanno rotto l'uovo, non sanno come cucinare la frittata e non è con una conferenza internazionale al quale già boicottato da diversi paesi che penseranno a risolvere una situazione di illegalità totale. O si ritorna alla legalità internazionale con l'ONU e l'uscita delle forze di occupazione, e allora si può cominciare a lavorare sul serio, o si continua massacrando di bomba questa povera gente e dicendo vi portiamo la pace, vi portiamo la democrazia, e non potrà mai funzionare così. Leopoldo Calabria per Amisnet.